Miami. Comunque, tutti questi vogliono fare sfere a Shiva. Poi però, nessuno ti paga una borsa di Hermes, né una vacanza alle Maldive, o un bel vestito a Dolce Gabbana. Giro solo con la fam, faccio dietro una bandana, anche la troia con te, è Money Gang o Santana, calibro 9 gemelle, leggiamo Dolce Gabbana, Hollywood con le modelle, puzziamo ancora di strada. Giro solo con la fam, faccio dietro una bandana, anche la troia con te, è Money Gang o Santana, calibro 9 gemelle, leggiamo Dolce Gabbana, Hollywood con le modelle, puzziamo ancora di strada. Fratelli chiusi nei blocchi finché si chiudono gli occhi. Bububu, inseguono solo i soldi, condanne dentro i giubbotti. Bububu, panette come lingotti, sopra i palazzi su degli elicotteri. Spendiamo in auto, case ed orologi, non ci parliamo a brumotti. È Money Gang o Santana, lo leggi sopra la maglia, sopra la collana. Ci va stai domiciliari, dopo sto disco anche gli altri si chiudono in casa. Marco se n'è andato, non è più tornato, mi spiace per Laura. Ci hanno provato a pompare gli stream ma non ha funzionato, mi spiace fra. Mi spiace per te, vuoi fare sfere e basta, davvero. Disco di platino in una settimana, davvero. Fanculo i soldi, fanculo la fama, davvero. Facciamo ancora sta roba per la strada, davvero. Giro solo con la fam, faccio dietro una bandana, anche la troia con te, è Money Gang o Santana, calibro 9 gemelle, leggiamo Dolce Gabbana, Hollywood con le modelle, puzziamo ancora di strada. Giro solo con la fam, faccio dietro una bandana, anche la troia con te, è Money Gang o Santana, calibro 9 gemelle, leggiamo Dolce Gabbana, Hollywood con le modelle, puzziamo ancora di strada.